Ciao, buonasera, sono di nuovo Micci di Bagnini. Adesso, telespettatori, vi presento una cartomante di Cosenza. Veramente si chiama cartomante, non è capito. Vabbè, può venire a rosa su sta scegliendo, voglio vedere che dice. Gamba. Comunque, buonasera a tutti, la cartomante è quello con lo spande. Signor Cap, per poco come succede, che vi può succedere domani, dopodomani, sempre se ci arrivate comunque. Comunque, regia, manda la prima volta, devo mangiare sempre queste cazze, cose che non lo faccio. Pronto, cartamà. Pronto, che ne è, che ne è? Signor Gigi non sciata, ho scasciato. Scasciato, manco sa il cognome tuo, leggiamo tutto, Gigi. Volevo sapere come va a finire l'azienda mia. Signor commessa, ma te la date in nascita? No, c'è bisogno, compa, già te posso decadere, te la falliscia. E tutti sui ceri. Benissimo, passiamo alla seconda telefonata. No, cosa va? Signor Sperato, aiutami tu. E chi cazzo andi disperato? Tanto prima o poi è ora, diciamo. Ma lascia da guaglione. Da noi è tutto perfetto, fino a quando non era sbondato i soldi. Poi signor che ho fatto fortuna cioè, tu che basta che siamo felici, invece è sparita, per piacere, me la sperate, per favore. E che te ne ha fatto buono, pure io posso sapere se ha fatto la stessa cosa. Si un depila, ecco, ma ti sei guardata allo specchio, reggi, non mi passate se te la farate nota, io non lo saccio. Pronto, gattama! E chi le cazzecchi, diciamo. Ma connucato, arritti, connucato! Eh? Chupa!